get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, sono Caterina e quest'oggi volevo parlarvi di un libro che ho finito di leggere da poco. Si tratta di Clara e Blu, di Sara Monti. A me è piaciuto molto, anche se è un libro un po' insolito. Insolito perché, di primo acchitto, sembra non avere una trama. Infatti la storia tra queste due donne, una medico e l'altra avvocata, viene narrata attraverso gli stati d'animo di Blu. Un susseguirsi di sensazioni, emozioni, ragionamenti e considerazioni che ti prendono al punto che non si riesce a chiudere il libro fin quando non è finito. Scritto in modo molto scorrevole, leggendolo, è difficile non riconoscersi almeno in una delle tante situazioni descritte. Le due donne hanno alle spalle due matrimoni falliti e all'inizio questa attrazione reciproca, questa cosa del tutto nuova, viene soltanto come un qualcosa capitato apposta per sconvolgere ancora di più le loro esistenze. Ma sarà proprio questo amore, ancora del tutto sconosciuto, che le riporterà alla gioia di vivere. Si passa all'inizio da un «ma stiamo scherzando, non è possibile, hai capito male?» al più accomodante «restiamo solo amiche», per arrivare al pensare che «senza te non so stare», fino al giungere ad un bellissimo «ti amo». Un «ti amo» detto con consapevolezza estrema, che racchiude comunque bisogno di autonomia, voglia di tenerezza, felicità per la scoperta di un piacere nuovo, gioia e voglia di condivisione. Dopo aver letto l'ultima pagina, ogni lettrice sa qual è la storia che hanno vissuto le due protagoniste, ma risfogliando a ritroso il libro ci si accorge, come dicevo all'inizio, che la vita di queste due donne non è mai stata scritta raccontandone gli episodi, ma soltanto narrando le emozioni di una delle due, la quale sembra come se avesse trascritto su un block notes piccoli appunti, a volte solo una frase o un pensiero. Per farvi capire meglio, avrei voluto leggervene alcuni brani, ma c'è un ma. Una postilla sul retro della prima pagina dice: «Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta, registrata o trasmessa, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, senza il preventivo consenso formale dell'editore». Beh, forse dipenderà dal fatto che non sono invischiata economicamente in meccanismi editoriali, ma penso che di un libro si possa poter dire e leggere tutto, specie se già pubblicato. Comunque, al di là di quello che la Grimsi editore ha scelto come linea, il libro vale la pena di essere letto. Per il momento vi saluto lasciandovi in compagnia di Joni Mitchell con il brano Song for Sharon. On a bridge up in Canada, they can balance and they can climb. Like their fathers before them, they'll walk the girders of the Manhattan skyline. Shine your light on me, Miss Liberty, because as soon as this ferry boat docks, I'm headed to the church to emotion, but I'm feeling's always written on my face. There's a gypsy down on Bleecker Street. I wanted to see her as a kind of joke, and she lit a candle for my love locking. 18 bucks went up in smoke. Repetitious danger. You think I'd be accustomed to? Well, I do accept the changes, at least better than I used to do. Ciao, sono Lucilla e stavolta voglio parlarvi della pubblicità e dintorni. Oh, quante belle figlie, Madame Adore, oh, quante belle figlie, ce l'ho e me le tengo, Madame Adore, ce l'ho e me le tengo. Il re ne comanda una, Madame Adore, il re ne comanda una. Che cosa ne vuol fare, Madame Adore, che cosa ne vuol fare? La filastrocca continua e finisce in un modo molto consueto. Una delle belle figlie di Madame Adore va in sposa a qualcuno che lei non sceglie, ma che un uomo, in questo caso il re, le impone. Il ruolo, quello di moglie e schiava, non cambia. Il capriccio del re definisce il destino di ciascuna delle belle figlie di Madame Adore, appioppando loro di volta in volta uno stalliere, un cuoco o chissà chi. Questa filastrocca ha segnato i giochi di tante bambine che fin dalla tenerissima età hanno imparato a digerire l'infamia del loro destino. Non potrai scegliere, dovrai obbedire ad un uomo, servirlo, sostituirti allo stato sociale, badando figli, malati, anziani, perché questo è il tuo dovere. La mamma è un albero che tutti i suoi frutti dà. Questa è la poesia che io imparavo alle elementari e che era stampata sul mio libro di lettura. La mamma dà tutta se stessa, con assoluta abnegazione. Persuasione occulta? Lavaggio del cervello? Come altro lo vogliamo chiamare? Eterosessualità obbligatoria? Questa mi sembra la definizione più corretta, quella che nomina il processo fondamentale utilizzato dal sistema patriarcal capitalistico, servirsi delle donne a livello produttivo e riproduttivo a costo zero. Le donne occidentali vengono addestrate sin dalla nascita a rispondere al loro compito preordinato attraverso una serie di condizionamenti più o meno pesanti. Per lo più sembrano scegliere felici e contente, ma hai sentito parlare di meccanismi di consenso? Nei cosiddetti paesi emergenti e in via di sviluppo, gli interventi sulle donne sono decisamente più pesanti. Basti ricordare la clitoridectomia. Ma torniamo al nostro evoluto Occidente. Bellezza, giovinezza, efficienza sono alcuni degli imperativi imposti che i media provvedono a diffondere a sprombattuto. Giornali, cinema, libri, TV, pubblicità. Ecco, ad esempio la pubblicità. Noi veliamo la vostra bellezza, ma ci sono paesi in cui questa pubblicità non ha senso. Così recitano cartelloni sparsi un po' dappertutto in città per reclamizzare calze. Dall'alto, gli occhi di donne in chador ci guardano, donne velate dalla testa ai piedi, donne che non possono parlare, che non possono raccontarsi. Altri cartelloni e spot televisivi ci informano che per definire a tutto tondo la donna basta rinominarla uoma. Con questa trovata si reclamizza una nuova rivista femminile. Ed è una rivista vecchia che reclamizza una nuova. L'unica considerazione che viene naturale fare è: non comprate questi prodotti. Ma non è finita. Nell'estate appena passata abbiamo visto sui muri e sui pannelli dirompenti seni malcelati da una cintura di sicurezza che, a detta dello spot, rassoda, tira su e salva la vita. Bella trovata a cura del Ministero dei Trasporti. Non sono gli unici, sono solo alcuni degli esempi dei migliaia che si potrebbero fare e che mostrano corpi di donne utilizzati a scopo di mercato. In tutto questo, né le varie ministre, né le varie commissioni delle pari opportunità hanno avuto niente da ridire. Le donne non si definiscono da sole, non si raccontano, e quindi una bella moglie, così l'uomo fa bella figura, una bella attrice, se è brava non importa, una brava madre di famiglia, che sa far quadrare il magro bilancio, un infermiere efficiente, che prepara i ferri e magari anche il caffè al dottore, un'onesta commessa, che fa arricchire il proprietario. Una volta e per tutte è necessario, è urgente, costruire il nostro destino a partire da noi, buttando nell'immondizia, perché questo è, tutto quello che ci viene imposto dal sistema patriarcale. La famiglia innanzitutto, famigerata struttura di trasmissione del potere. Early in the morning, she rises. Woman's work is never done. And it's not because she doesn't try. She's fighting a battle with no one on her side. Oh, she rises up in the morning, and she works till we pass us. Woman better slow down, or she's gonna come down hard. Era Tracy Chapman con Woman's Work. Da un po' di tempo a questa parte sui giornali si cominciano a vedere sempre più spesso articoli che riguardano quella che, dall'opinione pubblica, viene riconosciuta come la battaglia dell'intero movimento gay e lesbico, la rivendicazione dei diritti civili. Questo ci rattrista per due motivi fondamentali. Il primo è perché veniamo, nostro malgrado, inserite in un tutt'uno che non ci rappresenta. Il secondo è perché, non essendo d'accordo con queste richieste, diventiamo automaticamente portavoci involontarie di un qualcosa a noi molto distante. Cercherò di essere più chiara. Il movimento omosessuale è composto da unità diverse tra loro per il tipo di politica che fanno. C'è un elemento fondamentale che diversifica queste realtà, il separatismo. Alcuni gruppi, primo fra tutto l'ARCI, non è separatista. Altri, tipo il nostro, e cioè il Coordinamento Lesbiche Romane, è separatista. Rimando ad un'altra occasione l'analisi di ciò che è oggi il separatismo, perché voglio sottolineare ancora una volta le ragioni che ci spingono a non essere d'accordo con la richiesta dei diritti civili per gli omosessuali. A nostro avviso, la cosa prioritaria che gioverebbe alle lesbiche non è il potersi sposare. Per quel che mi riguarda, poi, lo sposarmi non è mai stato l'obiettivo della mia relazione amorosa. Semmai, è il constatare l'aspetto rivoluzionario dello stare con una donna che mi rende felice. Mi rendo conto che ogni volta che si nomina rivoluzionario, è difficile non pensare a ciò che la storia ci ha insegnato. Alle rivoluzioni, quelle con la R maiuscola. Non pensiate che ogni lesbica separatista abbia in casa bombe a mano o indossi il fucile al braccio. La nostra è una rivoluzione diversa, che passa attraverso la cultura. Operare affinché avvenga un cambiamento nel modo di pensare, ed è in questo senso rivoluzionario. Io sono lesbica e sono anche seriamente convinta che non otterrò mai il riconoscimento del mio essere altro se a garantirlo è solo una legge. c'è bisogno di molto di più. È necessario che la mia esistenza venga considerata legittima tanto quanto quella di un'altra, e non grazie al fatto che, con le mie scelte di vita, mi adeguo ad una realtà non mia o omologandomi al resto del mondo. Non è così che posso sperare di essere rispettata per ciò che sono, e cioè una lesbica, che è ben altra cosa dall'essere eterosessuale. Non mi interessa sapere che sono tollerata perché anch'io posso sposarmi o mettere al mondo un figlio con l'inseminazione artificiale. Prima di questo deve esserci il riconoscimento e il rispetto di quello che sono. Solo dopo posso essere tranquilla che il mio vivere la vita con un'altra donna possa essere considerato e non tollerato. A tale proposito vi voglio semplicemente ricordare che in molti paesi del mondo l'omosessualità è ancora un reato punibile con sanzioni molto severe. Per esempio a Cuba. Cristina, qualche puntata fa, ci ha raccontato del suo incontro con Paloma e della sua crisi nel non potergli mandare riviste gay che significherebbero per lui l'arresto immediato come possessore di materiale pornografico. Ma anche nella civilissima America, in alcuni stati l'omosessualità è reato. In Arkansas, nel Kansas, nel Missouri, nel Montana e nel Tennessee. Poi ci sono paesi nel mondo dove l'omosessualità è soltanto tollerata, appunto, tipo il Burkina Faso, l'Austria, il Canada e il Belgio, dove soltanto una persona maggiorenne può essere gay. Chissà perché questa limitazione, come se il sesso fosse un rischio solo per gli omosessuali. Ma allora, perché vietarlo solo ai minorenni gay e non ai minorenni e basta? In ultimo, ci sono paesi dove non esistono norme giuridiche specifiche che vanno contro l'omosessualità, ma questa è considerata una offesa alla morale o alla religione. È facile capire dove si può collocare l'Italia, vero? Infatti, in Italia, l'omosessualità non è un reato. L'Italia è forse un po' bigotta? E allora perché non andargli incontro? I bigotti, si sa, credono nella famiglia e nel sacro vincolo del matrimonio. E noi chi siamo per volere qualcos'altro? Folli? Lo sapete, per esempio, che qui in Italia, nel codice deontologico forense, approvato il 17 aprile 1997 dal Consiglio Nazionale Forense, c'è il capitolo numero 5 che riguarda i doveri di probità e decoro. Questo articolo si riferisce anche all'attività non professionale, quando il comportamento privato diviene rilevante all'esterno. Questo significa che gli organi professionali possono fare ricorso qualora ritengano che il fatto, diventato pubblico, possa compromettere la dignità dell'avvocatura. Io ho un'amica che è avvocata e vive da anni con la sua compagna. Questo articolo si rifà ad una sentenza del Consiglio Nazionale Forense che risale al 12 maggio 1958, 40 anni fa, dove praticamente si dice che può formare oggetto di procedimento disciplinare il comportamento che il professionista ponga in essere nella sua vita strettamente privata quando diviene di pubblico dominio e quando la personale reputazione dell'iscritto compromette la dignità della classe forense. Ciò comporta la radiazione dall'albo. E se la mia amica avvocata venisse, suo malgrado, scoperta da occhi indiscreti? Basterebbe la possibilità di contrarre un matrimonio, ammesso che ne avesse intenzione, per non essere vista come colei che compromette la dignità dell'avvocatura? Basterebbe? In fondo sarebbe legale. Io non rubo, perché sono convinta che non si debba, non perché c'è una legge che me lo vieta. Io lotto contro le ingiustizie perché sono convinta delle mie idee, non perché facendolo posso essere riconosciuta una in gamba. Io non mi nascondo dietro un rapporto eterosessuale solo perché questo è socialmente legittimo. Io non mi nascondo dietro un appiattimento delle diversità facendo quasi finta che non esistano. Io non metto in piedi un rapporto con un'altra donna spacciandolo per quasi la stessa cosa di uno eterosessuale. Io sono lesbica e rivendico il mio spazio. Io sono lesbica e rivendico il mio essere. Io sono lesbica, non un'altra cosa, lesbica. Non sono folle. La poetessa Emily Dickinson, un bel po' di anni fa, scriveva: molta follia è saggezza divina per chi è in grado di capire. Molta saggezza, pura follia. Ma è la maggioranza in questo e in tutto che prevale. Conformati e sarai sano di mente. Obietta e sarai pazzo da legare, immediatamente pericoloso e presto incatenato. Beh, io sono lesbica E non sono folle se non mi voglio omologare. If you could only see just what you mean to me, you would never ever pass me by. You would take my number and you'd call me up. You would never ever make me cry. Ed era Joan Armatrading con il brano Living for You. In alcune trasmissioni abbiamo nominato Valerie Solanas, che nel 1967 scrisse SCUM, ovvero il manifesto per l'eliminazione dei maschi, di cui vi abbiamo letto alcuni passaggi. Ma chi è Solanas? Valerie salterà alla cronaca il 4 giugno 1968, dopo aver sparato ad Andy Warhol. Aveva 28 anni. Per quell'episodio fu condannata a 3 anni di carcere, che scontò tra prigioni e manicomi di Stato. Le autorità dei maschi non si misero mai d'accordo. Valerie era pazza o socialmente pericolosa. Per quel che ha scritto, non era pazza, ma lucida. E per quel che ha fatto? Vediamo. Non mi risulta che i parà della Folgore per i fatti di Somalia siano stati dichiarati socialmente pericolosi. Nessuno stupratore viene messo pubblicamente al bando. Neanche Pinochet è stato dichiarato socialmente pericoloso. Ma una donna che teorizza il sovvertimento delle regole sociali e ferisce, non uccide, ferisce un uomo, viene dichiarata socialmente pericolosa, perseguita e rinchiusa. In tribunale Valéry negò d'aver progettato l'eliminazione violenta degli uomini e infatti in Scum si legge: Scum continuerà il suo terrorismo finché un numero sufficiente di donne alleate potrà raggiungere lo scopo senza ricorrere alla violenza. Quindi, secondo Valéry, le donne unite e consapevoli hanno la forza di sovvertire l'ordine dato. Dal New York Times del 10 giugno 1969 leggiamo: il tribunale ha offerto all'attrice 28enne la possibilità di ricorrere in appello, facendo presente l'ultima perizia dell'ospedale psichiatrico di Helmst sulla sua malattia mentale. Miss Solanas ha risposto con tono provocatorio: credo di rispondere perfettamente delle mie azioni. Assumendo la propria difesa, alla presenza muta dell'avvocato d'ufficio, ha detto, prima di ascoltare la sentenza: questo è il mio primo reato. Sono stata già rinchiusa preventivamente un anno intero. C'è della gente condannata per omicidio e con precedenti che ha avuto meno. E aveva ragione. A questo punto non possiamo che farvi ascoltare un brano di Tracy Chapman che voi avete già sentito, che abbiamo già mandato, e che si intitola Bang, Bang, Bang. You go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. When he holds it in his hand, he feel mighty, he feel strong. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. One day he may come back, be best for what we done. Then where are you gonna run to? We're gonna run. But one fine day, all our problems will be solved. Just bang, bang, bang, we shoot him down. And he won't ever come for us. He won't ever come. But if he does, and if there's no one else around, bang, bang, bang, we shoot him down. Us, brothers, sisters, and friends, we'll consider it a favor. We'll consider justice done. But if he comes for you or me, and we can face a gun in his hand, bang, bang, bang, we shoot him down. You go and do, go and give the boy a gun. Now there ain't no place to run to, ain't no place to run. Now we'll all be at his mercy. He decides to to hunt us down, 'cause there ain't no place to run to, ain't no place to run. He wants the chances that you took from him, oh, and nothing that you own. Then there'll be no place to run to, there'll be no place to run. And if he finds himself to be a reflection of us all, bang, bang, bang, he'll shoot us down. Before you can raise your eyes to read the writing on the wall, bang, bang, bang, he'll shoot you down. Before you can bridge the gulf between and embrace him in your arms, bang, bang, bang, he'll shoot you down. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane. Trasmissione autogestita all'interno del martedì femminista di Radio Onda Rossa sugli 87.900. Potete contattarci qui in radio al 49 17 50 o presso il centro femminista separatista, momentaneamente spostato in via della Lungara 19, al telefono fax 06 6864 201. Notizie dal mondo. La clitoride, questa sconosciuta. Leggiamo sull'Espresso di settembre 98 un trafiletto in penultima pagina firmato RS. Già il titolo, con tanto di foto, per chi non la conoscesse, è tutto un programma. Il clitoride svelato. Ne deduciamo che di velate sono rimaste solo alcune lesbiche e le donne in chador. Il tema trattato è: dove sta l'origine del mondo? Così come RS definisce l'organo sessuale femminile. Ma passiamo alla scoperta. L'urologa Helen O'Connell di Melbourne dichiara che la clitoride, e non il clitoride come scritto sull'Espresso, massa piramidale di tessuto erettile nascosta sotto le grandi labbra, è molto più voluminosa della punta visibile all'esterno. Ma davvero? Noi lo sappiamo da quando eravamo in fasce. Poi l'esperienza, si sa, perfeziona l'arte. Niente è più piacevole di sentirla crescere sotto le dita e la lingua. Ma RS non sembra convinto di questa realtà. Infatti, dice che quanto scoperto dalla O'Connell è ignorato dai migliori atlanti di anatomia. E poi RS stesso si rende conto che sono proprio i maschi a scriverli gli atlanti. Peccato non li scrivano le donne africane che praticano la clitoridectomia e l'infibulazione alle bambine, perché loro sì che la sanno trovare. Mentre i medici occidentali, che conoscono l'anatomia degli atlanti, il massimo che possono fare durante gli interventi di tipo uroginecologico è provocare guasti al piacere sessuale femminile. Che dire? No comment. No comment. L'autodeterminazione e la 194. La sentenza della Cassazione sull'autodeterminazione delle donne in materia di aborto ci ha dato nuovamente ragione a proposito della libertà di scelta. Le battaglie del movimento femminista degli anni 70 e 80, che portarono alla legge 194, sono state importanti allora come ora, visto che ancora oggi gli uomini accampano diritti sui corpi delle donne, tanto da ricorrere in giudizio per 14 anni chiedendo il risarcimento danni, cioè soldi, alla faccia del diritto alla paternità. Ancora una volta, no comment. Assassini di Stato. Che dire invece di Marco Marinzaldi? Ancora gli arresti domiciliari, nonostante abbia confessato di aver massacrato e ucciso di botte Sabrina, senza neanche prestarle soccorso? Questo accadeva a Roma ai primi di ottobre. Che dire di lui e di chi lo difende e protegge? Il tribunale ha stabilito che dovrebbe stare in carcere perché socialmente pericoloso, lui sì, ma i suoi avvocati, annunciando il ricorso in Cassazione, sono riusciti a tenerlo ancora fuori. Dati i presupposti, è facile prevedere che al processo se la caverà con pochi anni e poi tanta buona condotta. Farà di lui nuovamente un uomo libero di massacrare le donne. Questa volta il commento è: viva la giustizia di Stato! E per la serie Donne Politica? Ma dai, Lucilla, non fare così. Le parlamentari non possono stare ovunque. Vanno dove le porta il cuore, le creme, il lifting, insomma, dove è veramente necessario essere. Infatti, Stefania Prestigiacomo e Mariella Scirea, di Forza Italia, e Anna Serafini, dei Democratici di Sinistra, si sono recati al raduno di protesta a Salso Maggiore, che si è concluso con l'elezione di Miss Italia. Bello! Hanno gridato con forza il loro slogan di rottura: la bellezza non deve essere un handicap. E brave, plaude senza ironia la redazione dell'Espresso, aggiungendo che, aperte virgolette, un tempo si pensava che per una donna la bruttezza fosse un handicap. Quel tempo buono e ragionevole è purtroppo finito. Il mondo è delle bruttissime. Le belle ragazze sono maltrattate e ignorate, peggio degli albanesi. Qui c'è proprio una bella morale. Ricordala quando andrai a votare. Wow.